Ciao a tutti, benvenuti. Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda Rossa. La trasmissione è Stona Favola. Oggi è giovedì 31 maggio e abbiamo con noi un ospite speciale. E, per questo vorrei fare una premessa. Allora, non tutti sanno, forse qualcuno lo sa, che io avevo un padre che lavorava nel mondo del cinema. E, grazie a lui ho conosciuto una grandissima quantità di attori, famosi, famosissimi, belli, carichi di fascino, di carisma, ma io non ho mai subito il loro appeal. Invece oggi devo fare questo outing. Vedi? Sei pronti? Ho qua accanto a me un attore di cui subisco fortemente il fascino, lo devo dire, mi dispiace. E ve lo presento dopo aver fatto questa confessione. E è un attore straordinario, con un grande carattere, con una devozione a questo lavoro incredibile, è fantastico, è bravissimo ed è Valerio Aprea. Benvenuto Valerio. Beh, arrivederci a tutti. Così come sono arrivato me ne vado, seduta stante, dopo questo outing. No, dai, non te ne andare, stai con noi. E, che ci racconterai oggi? Che favole ci racconterai? Eh beh, dunque, facciamo questo dittico. La prima che faremo è La lampada di Aladino e la seconda Il colombre, scritto da Dino Buzzati, che è un racconto di Dino Buzzati. Bene, ringraziamo Valerio che ha deciso di fare una seconda favola, è bellissima, io non la conosco ma l'ascolterò incantata sicuramente, e allora possiamo incominciare. C'era una volta una vedova che aveva un unico figlio, di nome Aladino. Poveri come erano, conducevano una vita piena di stenti. Nonostante Aladino cercasse in tutti i modi di guadagnare qualcosa andando a raccogliere banane nei posti più lontani e disagevoli. Un giorno, cercando datteri selvatici in un palmeto lontano dalla città, incontrò un misterioso straniero. Ben vestito, una corta barbetta, uno splendido zaffero sul turbante, gli occhi neri e penetranti, costui si rivolse ad Aladino con una strana proposta. «Vieni qui, ragazzo. Ti piacerebbe guadagnare una moneta d'argento?» «Una moneta d'argento? Farei qualsiasi cosa, mio signore, per una ricompensa di questo genere. Non ti chiederò molto, vedrai. Devi solo scendere al mio posto attraverso questa botola troppo stretta per me e se farai quanto ti chiedo, avrai la ricompensa». Il ragazzo si fece aiutare ad alzare il coperchio di pietra troppo pesante per lui. Poi, piccolo e agile com'era, riuscì ad infilarsi senza difficoltà nella stretta apertura. I suoi piedi trovarono una fila di stretti gradini e Aladino scese lentamente con precauzione e si trovò in un grande antro pieno di strani luccichii. La luce tremolante di una vecchia lampada a olio illuminava fiocamente il sotterraneo. Appena gli occhi di Aladino si furono abituati a quella semioscurità, uno spettacolo meraviglioso gli si presentò davanti. Alberi da cui pendevano gemme sfavillanti, anfore d'oro e scrigni pieni di gioielli, dappertutto mille cose preziose, un vero tesoro. Aladino, stupefatto e incredulo, non si era ancora ripreso dalla sorpresa quando sentì urlare: la lampada, spegni e portami solo quella!» Aladino, sorpreso e indispettito che di tutto il tesoro lo straniero desiderasse solo una lampada senza valore, pensò che lo straniero fosse un mago o uno stregone e decise di stare in guardia. Presa la lampada, salì i gradini per tornare verso l'apertura. «Dammela!» gli disse il mago con impazienza. «Dammela subito!» urlò prepotente, allungando la mano per afferrarla. Ma Aladino, sempre più sospettoso, rifiutò. «Ti lascerò qui tutto solo e per sempre se non mi darai la lampada!» minacciò ancora l'altro. «Prima voglio uscire!» Peggio per te allora! E con un colpo secco il misterioso straniero richiuse la botola sopra Aladino, senza accorgersi però che nel fare questo un anello gli si era sfilato dalla mano. Aladino, spaventato e dubbioso sulle vere intenzioni del mago, rimase nel buio più profondo. In quel momento sentì sotto il piede l'anello, lo raccolse e senza riflettere se lo infilò, rigilandolo con l'altra mano. A quel gesto la caverna si illuminò di colpo e in una nuvola rosata comparve davanti a lui un enorme genio a mani giunte. «Sono qui ai tuoi ordini, mio signore, per esaudire due desideri», disse la magica figura. Aladino, sempre più sbalordito e incredulo, riuscì soltanto a balbettare nel vedere l'apparizione. «Voglio tornare a casa!» In un lampo fu esaudito. «Da dove sei entrato?» gli chiese la madre, china sui fornelli, appena si accorse del suo ritorno, vedendo la porta ancora chiusa. Aladino, tutto emozionato, raccontò con affanno quanto gli era accaduto. «E la moneta d'argento?» gli chiese la madre. Aladino si batté con forza la mano sulla fronte. Di tutta quella straordinaria avventura gli era rimasta solo la vecchia lampada. «Mi dispiace, mamma, mi è rimasta solo questa». «Speriamo almeno che funzioni, tutta sporca com'è». E la donna, per pulirla, si mise a strofinarla. Ma dal beccuccio della lampada, in mezzo a un denso fumo, comparve improvvisamente un altro genio. «Dopo secoli di prigionia mi avete liberato. Ero prigioniero dentro la lampada e sarei potuto uscire solo se qualcuno l'avesse strofinata. Ora sono qui, servo vostro, per farvi avere qualsiasi dono». E il genio si chinò rispettoso in attesa di conoscere i loro desideri. Aladino e sua madre, a bocca aperta, continuavano a guardare la strana apparizione senza riuscire a pronunciare una sola parola. Il genio, con una punta di impazienza, ripeté ancora: «Comandate! Comandate pure ciò che volete, io sono a vostra disposizione». Aladino inghiottì la saliva. Portaci, disse esitante, «portaci un bel pasto completo e abbondante». Finì la madre, che non aveva ancora preparato da mangiare. Da quel giorno la vedova e suo figlio non ebbero più problemi. Qualsiasi loro desiderio veniva esaudito dal magico servitore: cibo, vestiti e una bella casa. Com'erano lontani i tempi della povertà. Aladino intanto era cresciuto e si era fatto un giovane alto e di bell'aspetto. E già sua madre cominciava a pensare che avrebbe dovuto prima o poi prendere moglie. Quando un giorno il ragazzo, uscendo dal mercato, si trovò a incrociare la portantina della figlia del sultano. Intravide appena la fanciulla, ma tanto bastò per innamorarsene perdutamente. La vedova ricevette le confidenze del figlio e subito disse: «Parlerò io al sultano per chiedere la mano di sua figlia. Non potrà dirmi di no, lascia fare a me». Uno scrigno ricolmo di grossi diamanti fu un argomento che convinse facilmente il sultano a concedere udienza alla donna. Quando il sultano conobbe il motivo della visita della vedova, istigato dal ciambellano che aspirava lui stesso a sposare Alima, la bella figlia dagli occhi neri, chiese che il futuro genero dimostrasse la sua ricchezza e la sua potenza con un favoloso regalo. «Se vuole sposare mia figlia, dovrà mandarmi domani 40 schiavi nubiani. Ognuno di loro dovrà portare un forziere colmo di gemme e per proteggere un simile tesoro chiedo 40 guerrieri arabi di scorta al corteo». La madre di Aladino se ne tornò a casa sconsolata. Fino allora la lampada magica e il suo genio avevano compiuto prodigi, ma non certo di queste dimensioni. Dopo aver spiegato le richieste del sultano, vide che Aladino non si scomponeva. Il giovane prese la lampada, la strofinò più forte del solito e al genio, subito comparso, chiese di esaudire l'incredibile richiesta. Il genio batté 3 volte le mani e, come per incanto, comparvero i 40 schiavi neri con gli scrigni preziosi e la loro scorta. Il giorno dopo il sultano non credeva ai propri occhi. Non avrebbe mai immaginato di vedere tante ricchezze. Stava per accettare Aladino come sposo per la figlia, quando il ciambellano, roso dall'invidia, gli suggerì: «E dove andranno ad abitare?» Il sultano rimase perplesso e, spinto dall'ingordigia, chiese ad Aladino di far costruire al più presto un immenso e sontuoso palazzo per la figlia. Aladino non se lo fece ripetere e, tornato a casa, dove prima c'era un'incolta sterpaglia, fece costruire dal genio una reggia favolosa. Ormai non potevano più esserci ostacoli alle nozze, che furono celebrate tra la gioia di tutti e soprattutto del sultano, che aveva trovato un genero così ricco e potente. La notizia dell'improvvisa fortuna e delle enormi ricchezze di Aladino si sparse ovunque come un lampo, finché un giorno uno strano mercante si fermò sotto le finestre del palazzo di Aladino. «Cerco lampade vecchie dando in cambio lampade nuove», disse alla principessa che si era affacciata al balcone. Aladino non aveva mai confidato a nessuno il segreto della sua fortuna. L'unica a conoscerlo era la madre, che naturalmente non lo avrebbe mai svelato a nessuno. Purtroppo Halima non ne sapeva niente e, credendo di fare un affare, anzi una gradita sorpresa ad Aladino, andò a cercare la vecchia lampada che gli aveva visto nascondere e la scambiò con il mercante, che subito si mise a strofinarla. Ormai il mago, perché di lui si trattava, recuperata la lampada, aveva a sua disposizione il potere del genio. Si impossessò subito di tutti i beni di Aladino e ordinò che per magia il palazzo, compresa la principessa, fosse trasportato in un paese sconosciuto. Aladino e il sultano erano disperati. Nessuno riusciva a spiegarsi cosa fosse successo. Solo Aladino sapeva che la causa non poteva che essere la lampada magica. Nel rimpiangere il genio che tanto gli aveva dato, si ricordò anche dell'altro genio, quello dell'anello incantato che il mago aveva perso. Si ricordò così che aveva ancora una possibilità di vedere esaudito un secondo e ultimo desiderio. Trovato l'anello, lo infilò al dito, girandolo. «Portami subito dove il mago tiene prigioniera la mia sposa», ordinò all'improvvisa apparizione. Subito esaudito, in un lampo, si trovò lontano, dentro il suo palazzo. Nascosto dietro una tenda, vide il mago che si faceva servire dalla principessa. «Ps, ps», chiamò Aladino sottovoce. «Aladino, tu qui! Silenzio, non farti sentire! Prendi questa polverina e mettila nel tè nel mago! Abbi fiducia in me!» Poco dopo la pozione fece il suo effetto e il mago si addormentò di un sonno profondo. Aladino si mise a cercare la lampada ovunque, ma invano. La lampada non si trovava, eppure doveva essere in qualche posto, altrimenti come avrebbe fatto il mago a spostare il palazzo senza l'aiuto del genio? Finché, guardando il suo nemico che russava, gli venne l'idea di cercare dietro al grosso cuscino al quale era appoggiato. La lampada era lì. Finalmente, sospirò Aladino e, affannato, strofinò la lampada. «Bentornato, padrone! Perché mi avete lasciato servire un'altra persona per tanto tempo?» esclamò sorpreso il genio. «Bentornato, mio bravo genio! Finalmente ti rivedo! Non sai quanto mi sei mancato! Per fortuna ora sei di nuovo al mio fianco!» «Per servirti!» si inchinò sorridendo il magico servitore. «Prima cosa, incatena quel mago malefico e mandalo lontano, tanto lontano dove nessuno possa più ritrovarlo!» Il genio, sorridendo soddisfatto, fece un cenno e il mago sparì di colpo. Halima si strinse ad Aladino impaurita e incredula. «Cosa succede? Chi è questo genio? Perché sta tranquilla? Ormai va tutto bene!» E Aladino raccontò alla sposa tutto dall'inizio. Prima l'incontro con il mago, poi il possesso della lampada magica che gli aveva permesso di diventare suo sposo, quindi la sua scomparsa e poi come per mezzo dell'anello incantato fosse riuscito a ritrovarla. Finalmente tutto era ritornato come prima e i due, felici, si abbracciarono teneramente. «Ma potremmo tornare di nuovo nel nostro regno?» chiese la principessa titubante, pensando con nostalgia al padre lontano. Aladino la guardò sorridendo. «Con lo stesso prodigio con cui sei arrivata qui, tornerai a casa, questa volta con me, per sempre.» Il sultano era disperato. scomparsa la figlia, scomparso il meraviglioso palazzo e sparito improvvisamente il genero senza sapere dove né perché. Inutilmente aveva chiamato a palazzo i vecchi saggi per avere una spiegazione circa gli strani avvenimenti. Solo il ciambellano, pieno di astio e di invidia, continuava a ripetere: lo dicevo che la fortuna di Aladino non poteva durare. Quando tutti avevano ormai perso ogni speranza di rivedere Halima e il suo sposo, laggiù, lontano lontano, Aladino strofinò nuovamente la lampada e ordinò: riporta me e la mia sposa con tutto il palazzo nel nostro paese più presto che puoi. Sarai esaudito in un attimo, mio signore. E allo schioccare delle sue dita, il palazzo si alzò nel cielo come una meteora e poco dopo era sopra la capitale del regno, volando veloce sopra le teste della gente sbalordita. Si posò dolcemente dove era prima e Aladino e Halima corsero ad abbracciare il sultano. Ancora oggi, in quel lontano paese, si possono ammirare i resti di un antico palazzo che tutti chiamano il palazzo venuto dal cielo. Bene, andiamo avanti con la seconda lettura di Dino Buzzati. Bellissima questa versione, anche se un po' ritoccata, di Aladino. Bella, no? Beh, non so, sì, non conosco l'originale in arabo. Quando Stefano Roy compì i 12 anni, chiese in regalo a suo padre, capitano di mare e padrone di un bel veliero, che lo portasse con sé a bordo. Quando sarò grande, disse, voglio andare per mare come te e comanderò delle navi ancora più belle e grandi della tua. Che Dio ti benedica, figliolo, rispose il padre. E siccome proprio quel giorno il suo bastimento doveva partire, portò il ragazzo con sé. Era una giornata splendida di sole e il mare tranquillo. Stefano, che non era mai stato sulla nave, girava felice in coperta, ammirando le complicate manovre delle vele. E chiedeva di questo e chiedeva di quello ai marinai e sorridendo gli davano tutte le spiegazioni. Come fu giunto a poppa, il ragazzo si fermò, incuriosito, a osservare una cosa che spuntava a intermittenza in superficie, a distanza di 200-300 metri, in corrispondenza della scia della nave. Benché il bastimento già volasse, portato da un magnifico vento, quella cosa manteneva sempre la stessa distanza. E sebbene egli non ne comprendesse la natura, aveva qualcosa di indefinibile che lo attraeva intensamente. Il padre, non vedendo Stefano più in giro, dopo averlo chiamato a gran voce, scese dalla plancia e andò a cercarlo. Stefano, che cosa fai lì impalato? Gli chiese, scorgendolo infine a poppa in piedi, che fissava le onde. Papà, vieni qui a vedere. Il padre venne e guardò anche lui, nella direzione indicata dal ragazzo, ma non riuscì a vedere niente. C'è una cosa scura che spunta ogni tanto dalla scia, disse, e che ci viene dietro. Nonostante i miei 40 anni, disse il padre, credo di avere ancora una vista buona, ma non vedo assolutamente niente. E poiché il figlio insisteva, andò a prendere il cannocchiale e scrutò la superficie del mare, in corrispondenza della scia. Stefano lo vide impallidire. Cos'è? Perché fai quella faccia? Oh, non ti avessi ascoltato, esclamò il capitano. Io adesso temo per te. Quella cosa che tu vedi spuntare dalle acque e che ci segue non è una cosa. Quello è il colombre. È il pesce che i marinai sopra tutti temono in ogni mare del mondo. È uno squalo tremendo e misterioso, più astuto dell'uomo. Per motivi che forse nessuno saprà mai, sceglie la sua vittima e quando l'ha scelta la insegue per anni e per anni, per un'intera vita, finché è riuscito a divorarla. E lo strano è questo, che nessuno riesce a scorgerlo se non la vittima stessa e le persone del suo stesso sangue. Non è una favola? No, io non l'avevo mai visto. Ma dalle descrizioni che ho sentito fare tante volte, l'ho subito riconosciuto. Quel muso da bisonte, quella bocca che continuamente si apre e chiude, quei denti terribili. Stefano, non c'è dubbio, purtroppo il colombre ha scelto te. E finché tu andrai per mare, non ti darà pace. Ascoltami, ora noi torniamo subito a terra. Tu sbarcherai e non ti staccherai mai più dalla riva per nessuna ragione al mondo, me lo devi promettere. Il mestiere del mare non è per te, figliolo, devi rassegnarti. Del resto, anche a terra potrai fare fortuna. Ciò detto, fece immediatamente invertire la rotta, rientrò in porto e col pretesto di un improvviso malessere sbarcò il figliolo. Quindi ripartì senza di lui. Profondamente turbato, il ragazzo restò sulla riva finché l'ultimo picco dell'alberatura sprofondò dietro l'orizzonte. Di là dal molo che chiudeva il porto, il mare restò completamente deserto. Ma, aguzzando gli sguardi, Stefano riuscì a scorgere un puntino nero che affiorava a intermittenza dalle acque. Il suo colombre, che incrociava lentamente su e giù, ostinato ad aspettarlo. Da allora il ragazzo, con ogni espediente, fu distolto dal desiderio del mare. Il padre lo mandò a studiare in una città dell'interno, lontana centinaia di chilometri. E per qualche tempo, distratto dal nuovo ambiente, Stefano non pensò più al mostro marino. Tuttavia, per le vacanze estive, tornò a casa e per prima cosa, appena ebbe un minuto libero, si affrettò a raggiungere l'estremità del molo per una specie di controllo, benché in fondo la ritenesse superfluo. Dopo tanto tempo il colombre, ammesso che tutta la storia narratagli dal padre fosse vera, aveva certo rinunciato all'assedio. Ma Stefano rimase là, attonito, col cuore che gli batteva. A distanza di 200-300 metri dal molo, nell'aperto mare, il sinistro pesce andava su e giù, lentamente, ogni tanto sollevando il muso dall'acqua e volgendolo a terra, quasi con ansia guardasse se Stefano Roy finalmente veniva. Così, l'idea di quella creatura nemica che lo aspettava giorno e notte divenne per Stefano una segreta ossessione. E anche nella lontana città gli capitava di svegliarsi in piena notte con inquietudine. Egli era al sicuro, sì, centinaia di chilometri lo separavano dal colombre. Eppure egli sapeva che di là dalle montagne, di là dai boschi, di là dalle pianure, lo squalo era ad aspettarlo. E si fosse egli trasferito pure nel più remoto continente, ancora il colombre si sarebbe appostato nello specchio di mare più vicino, con l'inesorabile ostinazione che hanno gli strumenti del fato. Stefano, che era un ragazzo serio e volenteroso, continuò con profitto gli studi e appena fu uomo trovò un impiego dignitoso e remunerativo in un emporio di quella città. Intanto il padre venne a morire per malattia. Il suo magnifico veliero fu dalla vedova venduto e il figlio si trovò ad essere erede di una discreta fortuna. Il lavoro, le amicizie, gli svaghi, i primi amori, Stefano si era ormai fatto la sua vita. Ciò nonostante, il pensiero del colombre lo assillava come un funesto e insieme affascinante miraggio. E passando i giorni, anziché svanire, sembrava farsi più insistente. Grandi sono le soddisfazioni di una vita laboriosa, agiata e tranquilla, ma ancora più grande è l'attrazione dell'abisso. Aveva appena 22 anni Stefano quando, salutati gli amici della città e licenziatosi dall'impiego, tornò alla città natale e comunicò alla mamma la ferma intenzione di seguire il mestiere paterno. La donna, a cui Stefano non aveva mai fatto parola del misterioso squalo, accolse con gioia la sua decisione. L'avere il figlio abbandonato il mare per la città le era sempre sembrato in cuor suo un tradimento alle tradizioni di famiglia. E Stefano cominciò a navigare, dando prova di qualità marinare, di resistenza alle fatiche, di animo intrepido. Navigava, navigava, e sulla scia del suo bastimento di giorno e di notte, con la bonaccia e con la tempesta, arrancava il colombre. Egli sapeva che quella era la sua maledizione e la sua condanna, ma proprio per questo, forse, non trovava la forza di staccarsene. E nessuno a bordo scorgeva il mostro, tranne lui. «Non vedete niente da quella parte?» chiedeva di quando in quando ai compagni, indicando la scia. «No, noi non vediamo proprio niente, perché?» «No, non so, mi pareva». «Non avrai mica per caso visto un colombre?» facevano quelli, ridendo e toccando ferro. «Perché ridete? Perché toccate ferro?» «Perché il colombre è una bestia che non perdona. E se si mettesse a seguire questa nave, vorrebbe dire che uno di noi è perduto». Ma Stefano non mollava. L'ininterrotta minaccia che lo incalzava pareva anzi moltiplicare la sua volontà, la sua passione per il mare, il suo ardimento nelle ore di lotta e di pericolo. Con la piccola sostanza lasciatagli dal padre, come egli si sentì padrone del mestiere, acquistò con un socio un piccolo piroscafo da carico. Quindi ne divenne il solo proprietario. E grazie a una serie di fortunate spedizioni, poté in seguito acquistare un mercantile sul serio, avviandosi a traguardi sempre più ambiziosi. Ma i successi e i milioni non servivano a togliergli dall'animo quel continuo assillo. Né mai, d'altra parte, egli fu tentato di vendere la nave e di ritirarsi a terra per intraprendere diverse imprese. Navigare, navigare, era il suo unico pensiero. Non appena, dopo lunghi tragitti, metteva piede a terra in qualsiasi porto, subito lo pungeva l'impazienza di ripartire. Sapeva che fuori c'era il colombre ad aspettarlo e che il colombre era sinonimo di rovina, niente. Un indomabile impulso lo traeva senza requie da oceano ad altro. Finché, all'improvviso, Stefano, un giorno, si accorse di essere diventato vecchio. Vecchissimo, e nessuno intorno a lui sapeva spiegarsi perché, ricco com'era, non lasciasse finalmente la dannata vita del mare. Vecchio e amaramente infelice, perché l'intera esistenza era stata spesa in quella specie di pazzesca fuga attraverso i mari per sfuggire al nemico. Ma più grande che le gioie di una vita agiata e tranquilla era stata per lui sempre la tentazione dell'abisso. E una sera, mentre la sua magnifica nave era ancorata al largo del porto dove era nato, si sentì prossimo a morire. Allora chiamò il secondo ufficiale, di cui aveva grande fiducia, e gli ingiunse di non opporsi a ciò che egli stava per fare. L'altro, sull'onore, promise. Avuta questa assicurazione, Stefano, al secondo ufficiale che lo ascoltava a sgomento, rivelò la storia del colombre, che aveva continuato a inseguirlo per quasi 50 anni inutilmente. «Mi ha scortato da un capo all'altro del mondo», disse, «con una fedeltà che neppure il più nobile amico avrebbe potuto dimostrare. Adesso io sto per morire. Anche lui ormai sarà terribilmente vecchio e stanco. Non posso tradirlo». Ciò detto, prese commiato, fece calare in mare un barchino e vi salì, dopo essersi fatto dare un arpione. «Ora gli vado incontro», annunciò. «È giusto che non lo deluda, ma lotterò con le mie ultime forze». A stanchi colpi di remi si allontanò da bordo. Ufficiali e marinai lo videro scomparire laggiù, sul placido mare, avvolto dalle ombre della notte. C'era in cielo una falce di luna. Non dovette faticare molto. All'improvviso, il muso orribile del colombre emerse di fianco alla barca. «Eccomi a te, finalmente!» disse Stefano. «Adesso a noi due!» E raccogliendo le superstiti energie, alzò l'arpione per colpire. «Mugulò con voce supplichevole il colombre. «Che lunga strada per trovarti! Anch'io sono distrutto dalla fatica! Quanto mi hai fatto nuotare e tu fuggivi, fuggivi e non hai mai capito niente!» «Perché?» fece Stefano punto sul vivo. «Perché ti ho inseguito attraverso il mondo, non per divorarti come pensavi. Dal re del mare avevo avuto soltanto l'incarico di consegnarti questo.» E lo squalo trasse fuori la lingua, porgendo al vecchio capitano una piccola sfera fosforescente. Stefano la prese fra le dita e guardò. Era una perla di grandezza spropositata. E lui riconobbe la famosa perla del mare, che dà a chi la possiede fortuna, potenza, amore, pace dell'animo. Ma era ormai troppo tardi. «Ahimè», disse scuotendo tristemente il capo, «come è tutto sbagliato! Io sono riuscito a dannare la mia esistenza e ho rovinato la tua.» «Addio, pover'uomo», rispose il colombre e sprofondò nelle acque nere per sempre. 2 mesi dopo, spinto dalla risacca, un barchino approdò a una dirupata scogliera. Fu avvistato da alcuni pescatori che incuriositi si avvicinarono. Sul barchino, ancora seduto, stava un bianco scheletro e fra le ossicine delle dita stringeva un piccolo sasso rotondo. Il colombre è un pesce di grandi dimensioni, spaventoso a vedersi, estremamente raro. A seconda dei mari e delle genti che ne abitano le rive, viene anche chiamato colomber, calombra, calonga, calubalu, cialungra. I naturalisti stranamente lo ignorano. Qualcuno persino sostiene che non esiste. Beh, meravigliosa questa lettura, davvero bella, grande Valerio e grandissimo David, sì, con la colonna sonora di oggi, bravo, veramente bravo, veramente azzeccata e grazie. E quindi adesso possiamo iniziare a fare una chiacchierata con Valerio. E inizio io, poi ti chiederà qualcosa Federico, facciamo un po' per uno. Va bene. E io, ecco, sono un po' in difficoltà con le domande. Ormai c'ho sempre la paranoia che non vanno bene. Vabbè, mo, certo, tu proponi, poi metteremo i voti. Le valutiamo tutti insieme. Dai. Allora, ti volevo chiedere, qual è il motore trainante che ti fa scegliere di fare parte di uno spettacolo teatrale o di un film? Capito? Questa è per i bimbi. Beh, sembra una domanda decorosissima. Meno male. Insomma, il motivo trainante, ma forse principalmente il testo. Sì. Si parte sempre dal testo. Finita? No, beh, questo è l'inizio. Adesso si prende le sue pause. Abbiamo mezz'ora anche solo per questa domanda. Allora, io personalmente parto dal testo. Come per queste favole, cioè è la stessa cosa. Un testo è la prima cosa che mi folgora o no. E se accade, allora se ne parla. Perché credo che nel testo c'è già tutto il potenziale espressivo di un'operazione. Poi dopo il resto spetta appunto a me, nella misura in cui sono l'attore, al regista, alla produzione, insomma tutto il resto viene dopo. Se non c'è il testo c'è poco da inventarsi, secondo me. E poi volevo domandarti, hai fatto molti monologhi, forse uno dei modi di fare teatro più difficili, insomma. Come mai hai scelto questo modo di comunicazione? Ma in realtà anche questo, dunque, questo è, ci sono arrivato col tempo, e col tempo ho capito che forse, dico forse, quella del monologo è la veste più giusta per me. Da un lato perché quando ho cominciato a farli ho visto che tutto sommato non mi cacciavano a calci, e poi, poi in seconda battuta ho constatato che ne godevo assai personalmente a farli, e la terza è una cosa che è venuta più col tempo, è conquista diciamo del più recente, e cioè essermi reso conto che forse nel monologo io posso non barare. Mo si apre un discorso molto lungo, Sabino. Cercherò di sintetizzarlo, però insomma, come posso dire, nel monologo, per quanto mi riguarda, posso rappresentare quel me stesso che altrimenti andrei a rivendermi invece in personaggi che non meritano questa sciagura. Cioè non è giusto che io debba infilare in tutti i personaggi che un attore è giusto che faccia, e che sono ognuno diverso dall'altro, invece andarci a infilare le mie intonazioni che sono gradite quando le faccio. Allora però è più giusto fare quindi nel monologo non l'attore che si cala in un personaggio, ma diciamo un attore più maschera, cioè che è sempre un po' quello che uno si aspetta da Valeria Brea, tipo le sue pause, le sue ripeto intonazioni, e quindi fare una sorta di di rappresentazione di me stesso al servizio di quello che sto dicendo, naturalmente del testo, però ripeto è più coerente con le mie caratteristiche attoriali. Beh sì, è vero, io ho visto diverse tue cose e sono veramente efficaci, cioè ti calzano proprio a pennello, sembrano scritte apposta per te e per nessun altro, sono fantastiche. Se le fa scrivere su misura. È vero. No, non sono arrivata ancora a questo. Sembra. Magari. Senti, il rapporto con Mattia Torre e Giacomo Ciarrapico è stato fecondo, no? Sì. E di grande successo, è stato grazie a un'alchimia particolare tra di voi? È l'alchimia che, come ho detto prima, risponde solamente a quello che questi due geni riescono a scrivere. Cioè io l'ho conosciuti nel 96, quando per caso vidi il loro primo spettacolo a teatro, un teatrino a Roma. Qual era lo spettacolo? Era Io non c'entro. Perché io vidi Piccole anime al Colosseo, pensa, ci siamo ricordati poi questa cosa. Erano Piccole inizi 90. Era il 90. Sì, inizi 90. 97-98. No, ah, no, 97-98. O forse lo avevano già fatto, guarda, non ti so dire. Sicuramente erano fatto nel 97-98 perché ero lì e... Sì. Però prima di Piccole anime ne hanno fatti questo Io non c'entro, poi ora l'ordine non me lo ricordo, però ne hanno fatti quattro in tutto. Il primo era questo Io non c'entro, ed erano loro qua, erano Ciarrapico in persona in scena, poi Andrea Sartoretti, per chi non conoscesse, il bufalo del romanzo criminale, uno degli sceneggiatori di Boris insieme a me, l'altro sceneggiatore Massimo De Lorenzo, e poi Carlo De Ruggeri, che è l'altro, lo schiavo di Boris. Loro quattro erano un quartetto che facevano le loro commedie scritte a quattro mani da Giacomo e Mattia Torre, e in scena erano sempre loro quattro. E io vidi questa prima volta da spettatore, non sapevo chi erano, e io dissi: ma chi sono questi? E io vi assicuro che quello che io ho provato è la stessa cosa che prova uno oggi a vedere Boris. Cioè io ho visto Boris già quel giorno, la stessa ironia, la stessa acume. E quindi la risposta è, io fuori l'ho fermato e dico: oh, ma voi, ma chi siete, quando stavate? Ecco, questa è stata l'alchimia che è nata. Fantastico. E poi hanno fatto, Mattia ha scritto quel meraviglioso monologo che tu hai fatto in mezzo al mare, se non sbaglio. Sì, no? Sì. Che era geniale anche quello. È bello, quello lui lo scrisse sì nel 2003 così, e me lo mandò, e io lo lessi e dissi: ma tu come hai fatto? Ma perché me l'hai proposto proprio a me? Perché sembrava potevo averlo scritto io. Sì. E quindi lui disse: ma non lo so, così ha senso. Ha senso. E quindi Senti Valerio, ci racconti un po' com'è nato l'amore per questo lavoro, per la recitazione? Mazza, questa... Questa l'hanno fatta 100 volte. No, beh, no, no. Cioè, beh, com'è nato? Quando è nato, forse? In realtà, guarda, non lo so, non lo so. Non sono di quelli che dice ma io da piccolo recitavo, facevo le recite, cosa peraltro vera invece. Però non mi viene di dirlo, non è che riconduco a quello. No, al liceo, forse verso la fine del liceo, ho cominciato a prendere in considerazione che esisteva nel mondo la categoria delle persone che recitano, ecco, il teatro, insomma. Ma ho un ricordo vago di questi pensieri. E poi posso dire l'episodio spicciolo per cui una sera stavo entrando all'Alien in discoteca. Io andavo in discoteca e una sera entro all'Alien come cubista. Sì, già mi esibivo. E all'ingresso incontro un amico. Che, classica cosa, che fai? Dice no, ma io sto a fare una scuola di recitazione. Ah, e dove? E beh, un posto. E io dissi, perché questa era stata in quel periodo un po' la mia remora, dico ok, ma se uno si iscrive a una scuola di recitazione, perché deve fare un provino per essere ammesso? Mm-hmm. Metti l'accademia, cioè io vi sto chiedendo di venire a imparare, di insegnarmi, come potete pretendere che sappia fare niente? Com'è possibile? Non capivo sta cosa, non capivo che un minimo uno doveva le attitudini. E quindi io avevo comunque detto, vabbè, non lo farò mai. Invece questo dico ah, come si fa? Come hai fatto? Cioè, beh, è semplice, paghi, entri. Il giorno dopo stavo là. Il giorno dopo ho detto, vado, è l'occasione, ho preso al volo questa input. E quanti anni avevi? 23, era il 90, fine 90. 20, sì. Senti, la ricerca di questa favola è stata, a mio avviso, molto profonda. Come mai ti ha messo in difficoltà a rapportarti con i bambini, con le loro icone? Perché dici che è stata profonda la ricerca? Perché insomma ci abbiamo messo un po'. Ah, ok, ok, in quel senso, te devi dire quello, ok, ok. Certo. Dunque, io ho difficoltà a rapportarmi in generale col mondo. Dai, non soprattutto sembra. Soprattutto se mi rapporto attraverso una performance, tu capisci? Insomma, ci tengo a cercare di scegliere la cosa migliore. E ci ho messo un po' a pensare quale fosse il testo più giusto, a prescindere dai bambini. Non me ne interessa niente dei bambini. Ah, bene, sono contenti tutti i bambini. Sto scherzando, bambini, l'ho fatto solo per voi. Allora, no, a parte gli scherzi. No, perché appunto qui il problema si faceva doppio. Cioè, non solo cercare con cura un testo congeniale per me e io per lui, e in questo caso però l'ascoltatore erano i bambini, che per certi versi sono, quindi, da un lato addirittura più esigenti e anche capaci di meccanismi diversi sicuramente dagli adulti, e quindi ho dovuto un po' ponderare, perché era la responsabilità è alta, no? Insomma, ci tengo a voi. Senti, ma che tipo di rapporto hai con i bambini? Ti piacciono? Sì, più che altro... Tu non hai figli, no? No, più che altro, vi confido questa cosa, sembro piacere molto io a loro. Cioè, succede sempre che bambini, figli, d'amici, neonati, gente di due, quando mi guardano si ipnotizzano, rimangono come folgorati, non lo so che c'hanno, come se loro, sai, si dice, no, i bambini entro il terzo, prima dei 3 anni hanno capacità, come i gatti che vedono vedono che entità, vedono cose al di là delle pareti, non lo so, hanno delle funzioni che poi perderanno, e non lo so cosa vedono in me, che forse un loro simile, forse io sono rimasto un coetaneo loro, allora credono, non lo so, però sono loro molto attratti da me, entrano in empatia con me. Molto spesso succede che con i bambini nei riguardi degli adulti che non si rapportano con loro come se fossero dei bambini, ma li trattano Da pari, sì, e quindi... Avete capito? Non so. Spesso succede questa cosa. Senti, aspetta che mi sono persa. Cosa pensi del teatro di oggi, diviso da un lato dal teatro tradizionale e dall'establishment e dall'altro dall'autogestione, l'auto-organizzazione... L'occupazione. Lì volevo dire, diciamo. Capito? Appena alla parola cosa ne pensi? Anche qua, ripeto, facciamo notte. Il discorso è complesso. Vabbè, sintetizza. È disastro totale. Siamo messi molto male, molto. Discorso enorme, non so, potendo sintetizzare, tentando di sintetizzare. Vabbè, c'è la crisi, va bene, ok. E lo sappiamo. La crisi non è altro che un interagente con qualcosa di peggiore, e cioè che io ritengo in questo paese è in atto una sorta di, cerchiamo di essere più gentili, una selezione naturale, cioè una, vabbè, io la chiamo una pulizia etnica culturale, nel senso che da decenni si tenta di ridurre sempre più sia gli spazi che proprio la fascia di popolazione che sia interessata a una forma di cultura. Cioè la fascia di popolazione vogliosa di acculturarsi e quindi vogliosa di cose come il teatro, la musica, il cinema, l'arte, è una fetta di popolazione già di per sé comunque non ampia, no? È statistico questo. Ecco, questa fascia di popolazione da decenni è in atto proprio un'azione di sempre più ridimensionamento il più possibile, cioè di abbattere, di cercare di ridurla sempre più, di farne nascere sempre meno. Proprio alla nascita si cerca di eliminarli con tutti gli orpelli che sappiamo dell'era, della società in cui viviamo. E questo fa sì che quindi viene sempre meno proprio la domanda di una qualche forma di espressione artistica, vedi il teatro. Allora se viene meno la domanda, perché c'è meno proprio persone, meno popolazione che c'è, che ti chiede di voler vedere il teatro sempre più muore, perché a chi si vende, a chi si offre il teatro, a chi si propone, se non c'è chi lo vuole. Se si elimina chi vuole il teatro muore già più di quello che fisiologicamente chiaramente debba essere morto rispetto alla nascita del cinema, la televisione, internet. Cioè quello già è stato un fatto storico, epocale, però se tu vai pure poi a ammazzarlo definitivamente riducendo proprio chi voglia andare a teatro, quindi questo fa sì che il teatro è un'utopia ormai, fare teatro è un'utopia. Di contro, dall'altra parte, chi lo fa il teatro, quelli che lo fanno, sono anche lì, non c'è tanta offerta di cose teatralmente tali da invece da richiamare l'offerta, da avere appeal, perché l'offerta invece dica no, sai che c'è da vedere quello e poi c'è quell'altro e quella. Alla fine anche l'offerta del teatro, anche quella è stata un po' è stata ridotta come per la domanda. È un po' anche fatto storico, non è che nascano sti geni così spesso, per cui so come dire, come se nel calcio ci fossero poche squadre e poco pubblico che voglia vedere il calcio. Calcio poi il teatro è così, cioè siamo un paese che non, che gli frega a nessuno di uscire di casa e spendere 15 euro per andare a teatro, se non a botta sicura, dice vado perché c'è mio cugino che recita, oppure vado perché c'è Guzzanti che recita. Cioè deve avere un motivo valido uno per andarci a teatro, non c'è la curiosità di dire beh questo non lo conosco, però andiamo a vedere. In Francia è così, cioè in Europa è così, perché esiste una cultura, cioè sono paesi con in cui la cultura ha un ruolo, è un valore, no? Un ruolo. Sto dicendo una serie di banalità, no? Però è un po' questo. E quindi il teatro, quindi arrivare a te, dici le autogestioni, occupazione, cose così, sì, è un problemaccio, perché anche se tu ti autogestisci, ti fai, però qui lì il problema è proprio come si risolve che il fare teatro pagato per chi lo fa e pagante per chi lo va a vedere. Ci sono i numeri oggi ci sono più i numeri per farlo, e se ci sono come dobbiamo fare? Perché ormai si sta ripetendo sempre più la cosa di dire vabbè, stiamo a fare tutto gratis qua, stiamo facendo pur di esistere, di sopravvivere, resistere, che si fa? Si occupa e poi si fa gratis, e questo non fa che avallare la conferma che tanto noi possiamo fare gratis. Ma dove? Come? No. No. Ma comunque non hai detto affatto delle banalità, e è importante riflettere su tutto questo, è importante parlarne e anche un po' pensare a, insomma, questo nostro paese che ha una crisi, tutti parlano di questa crisi economica, ma invece poi la crisi economica poi parte anche, no, da una crisi culturale, no? Sì, sì. Cioè, in realtà, alla fine, oltre che fare quello che si fa, vabbè, le occupazioni è tutto sacrosanto, per carità, cioè bisogna protestare, tutte le occupazioni di questi mesi, queste sono tutte la punta di un iceberg, sacrosanto, va bene. Io comincio a pensare, dico, forse però, oltre a occupare e cercare di autogestirsi, però forse bisogna veramente fare in modo di imporre che le cose cambino, non perché tocca occupare e diventa noi impresari, cose che non siamo, cioè... noi, andare a imporre in qualche altra maniera, protestando sotto gli uffici deposti, forse sotto ai ministeri, non so, andare fisicamente nelle stanze del potere a dire dovete cambiare voi, non è che noi dobbiamo metterci al posto vostro, perché sennò rimaniamo noi clandestini, incapaci perché più di tanto non abbiamo i mezzi, invece no, chi ha i mezzi deve fare quello che si è sempre fatto e che si fa altrove. Io intanto ricordo che Attica Blues, la trasmissione che in teoria viene dopo di noi alle 4 oggi, non andrà in onda, quindi possiamo allungarci anche un sforare po'. Sforare quanto ci pare. Sì. Senti, io ho un'ultima domanda. È quasi finito il nostro programma Sto una favola e nessuno fa mai delle domande a me, Federico e David. Non so perché. E volete cominciare proprio da me? Sì. Andiamo bene. E tu che cosa vorresti chiederci? Oddio mio. Bella questa. Mi raccomando, domande originali. Questa mi ricorda, fatti una domanda e datti una risposta. No, beh, che vi chiedo? Io intanto stacco il microfono così posso anche passarlo al maestro. No, questo. Sì, vi chiedo questo. Voi fate radio, no? Questa radio. Io spesso, no, mi capita appunto di andare anche in altre radio, conosco la realtà delle radio romane, eccetera. Come pensate, cioè che strumento avete di feedback, di sapere fisicamente quante persone realmente davvero vi stanno sentendo in questo momento, in un altro momento, cioè di quale impatto ha veramente una radio come questa, concreto? Ora, siccome non so l'audio delle cose, a parte che anche l'audio del vero sappiamo che è una fandonia, quindi appunto se quello vero della televisione è una fandonia, dico, per le realtà della radio indipendente così, come si fa a sapere poi quanto davvero c'è un'interazione? Guarda, di dati materiali ti posso rispondere su questa cosa. Una ricerca venne fatta qualche anno fa da una radio commerciale, secondo la quale risultava che il nostro bacino d'utenza si aggirava intorno alle 30.000 unità. Questo però è l'unico dato che abbiamo da qualche anno a questa parte. Poi sono cambiate molto le cose, c'è la rete che svolge una grande funzione, quindi non so adesso effettivamente su che livelli stiamo. Però insomma, questo è l'unico dato certo che abbiamo. Forse con la rete invece sì, si avrebbe lo strumento, ma ci sarà la tecnologia per capire quanti sono connessi adesso, lo sappiamo e si sa. Questo no, quello... non lo so. No, dico, potrebbe esistere la tecnologia perché, per esempio... diventa un auditel reale. Sì, sì, penso. Chi lo sa? Non lo so, no, tecnicamente non lo so. Forse Davide ci capisce di più su questa cosa. Per esempio, tipo quelli. Non lo so. Non lo sanno. Vabbè, passiamo alla seconda domanda. Però no, su questa cosa, per esempio, lo strumento streaming fa sì che la radio, per esempio, possa essere sentita ovunque nel mondo, e questo sicuramente allarga di molto la fruibilità. Questo è indubbio, certo. Però materialmente non so come può funzionare. Vabbè, bravo. Vabbè. Valerio. Io la domanda l'ho fatta. Io compì a fatta. E non ha fatta nessuno, eh. Esatto. Fede. Tu hai finito, hai terminato con le tue curiosità. Avrei, ho fatto 10 domande. Beh. Ci hai lavorato sopra. Sono stata brava. Valerio, prima parlavi di di Ciarrapico Torre gli esordi a teatro, almeno quando hai avuto modo per la prima volta di vederli, e quello spirito di Boris che ritrovavi già allora, era la fine degli anni 90. Mm-hmm. Ecco, Boris, secondo te il successo che ha avuto, a cosa è dovuto anche? Rispetto alla la fruizione proprio del... visto che prima comunque facevano un teatro comunque di nicchia, e adesso invece tramite questa serie televisiva che ha avuto un successo inaspettato, secondo te quali sono? Cosa è scattato? Sembro veramente che a monotematico rispondo sempre la stessa cosa, cioè che alla fine quello che loro scrivono è stato fatto vedere a un numero sufficiente di persone perché tutti dicessero e chi so questi? Sì. Dei talenti. Infatti quello che sostengo io è che Boris è un prodotto diesel, perché ci ha messo 3 anni ad arrivare a tutti quelli che è arrivato, perché su Fox, appunto, su Sky, l'Auditel lì parlava di cifre incredibili. Addirittura mi ha detto Mattia Torre che una volta gli risultava che dai dati che arrivavano nessuno stava vedendo Boris quella sera, cioè secondo quella percentuale equivaleva a 0 persone una sera, è stato così, capito? Quindi figuratevi. Quindi ci ha messo 3 anni per arrivare, e naturalmente, come tutti sappiamo, tramite lo scarico dal web, eccetera. Però appunto io sostengo che se invece fosse andato, poi c'è pure arrivato su Rai 3 e l'hanno visto, ma è sempre una cosa, ma se fosse stato fatto vedere su Rai 1 in prima serata a che ne so, 20 milioni di persone, non dico 20 ma 19 milioni di persone, avrebbero detto e questi sono dei geni che avrebbero goduto della cosa, cioè è un fatto solo di farla vedere una determinata cosa alla gente, e quindi il problema è proprio di veicolo, esatto. Vale per tutto, ma per il discorso del teatro di prima, cioè questo è un discorso a monte, salta così lo schema di chi dice, di chi gestisce poi i canali di informazione, dice questo la gente non lo vuole vedere, ma chi l'ha detto? Capito, certo. Sì, questa è la mia risposta. Esatto. Senti Valerio, tra radioteatro e Stona Favola abbiamo avuto anche ospiti diversi, e attori che fanno parte del progetto Voci nel Deserto. Gli ultimi sono stati Giovanni Scifoni ecco, parliamo anche un po' ricordiamo anche questo esperimento teatrale che vede questo gruppo di oltre 70 attori messi insieme, che danno vita ogni ultimo venerdì del mese a questa sorta di rave teatrale, così viene definito, e raccoglie spezzoni di cosiddetta libertà di pensiero, testi scritti dai classici greci fino ad oggi, che hanno una loro attualità. Ecco, questo esperimento che ti vede fortemente coinvolto, cosa rappresenta per te e cosa può rappresentare in generale? Questa è stata una bella avventura che è nata 3 anni fa, ad opera di Marco Melloni, che è un autore televisivo, e il quale si è inventato questo che si può definire anche un format, insomma, e cioè il fatto di avere appunto testi del passato che fossero profetici a tal punto che se letti oggi destassero nello spettatore stupore e indignazione anche. Abbiamo avuto quindi questi 3 anni di serate una volta al mese, e personalmente è stata una bellissima esperienza, perché ecco, anche lì completamente gratuita, però appunto ci sono cose che uno allora può scegliere, sì, di fare gratuitamente, come una sorta che io chiamo di volontariato teatrale, vero, ecco, però deliberato, scelto e anzi proprio voluto così, perché sono operazioni nelle quali poi se dovessero entrare di mezzo i soldi poi diventa tutto molto strano e poco gestibile. Allora ecco, posso dire che 3 anni di questa esperienza mi hanno probabilmente dato molto più di tante cose sì remunerate, però magari non così ricche. È stata una bella anche palestra per avere sempre dei testi nei quali cimentarsi, stare in gruppo con tanti altri attori e attrici, insomma fare un'operazione artisticamente valida, ma non solo, ma anche con una valenza civile. Insomma, non amo, non mi piace spacciare cose che faccio, cioè quantomeno sottolineare che determinate cose che faccio come attore abbiano assolutamente solo la valenza politica, di attività, attivismo, eccetera. E io credo che il modo per essere incisivi nella realtà in maniera politica, ma in senso lato, civile, lo si fa anche, anzi per quanto mi riguarda, solo rimanendo a fare quello che si fa. Cioè io faccio l'attore, faccio il mio lavoro, e nel modo in cui lo faccio e con quello che scelgo di fare divento una persona che sta incidendo nella realtà, e quindi sto facendo un atto politico. Sì. Preferisco dichiarare che per me è una forma è un'operazione artistica, Voci nel deserto, dietro la quale poi chi vuole vedere quello che vuole vedere lo veda, invece che dire no, beh, io adesso faccio l'impegno. Preferisco, ecco, sì, dichiarare che è un fatto comunque artistico. Senti, tra l'altro ti ringrazio perché sei stato un gradito ospite anche nella serata per la festa dei 35 anni della radio, dove nell'occasione hai interpretato Gola di Mattia Torre, sì, tra l'altro. Volevo in chiusura chiederti dove ti vedremo prossimamente. Beh, voi che fate? Dove se volemo vedere? Giù al bar. Qua sotto. ma prossimamente... farò da qui a fine luglio ho alcune serate singole secche, quella con Mattia Torre, perché appunto è uscito, anzi tra l'altro lui è uscito il libro di Mezzo al Mare, di quello che dicevi tu prima, che raccoglie tutte le sue l'abbiamo cose. Presentato anche qui. L'avete già presentato? Sì, non la trasmissione di letteratura tabula rasa. Ecco, quindi sapete, con quel libro noi andiamo a fare varie presentazioni, avremo varie serate in giro a Roma in cui lo presentiamo e anche fuori. E poi di Francesco Piccolo faccio serate come ho fatto anche ieri sera, devo dire, di reading dei suoi testi con musica accompagnato da musicisti, e ne farò una il 16 giugno a Roma, in un bel posto che è a Caracalla, che è l'Arancera. Uh-huh. C'è un posto magnifico dove si sposa la gente che non si vuole sposare in chiesa. Sì. Ecco, lì di fronte c'è una villa meravigliosa, e lì ci sarà una serata il 16 giugno in cui farò testi Francesco. Ma hai un sito di riferimento, un sito internet? No, io ho solo la pagina Facebook. Pagina Facebook, vabbè, già qualcosa. Beh, andateci, perché i testi di Francesco Piccolo sono veramente divertenti, non perdeteveli, se potete andare. Li hai testati tu ieri sera? Sì, per fantastici, veramente divertenti. Ci diamo appuntamento per giovedì prossimo. Ottavia, cosa abbiamo? E giovedì prossimo abbiamo Evita Ciri. Brava. Che ci leggerà le favole di Gramsci. E quindi delle favole importanti e belle, e niente, ci vediamo giovedì prossimo. Sarà dalle 15 alle 16. Non sappiamo se è l'ultima puntata. Non sappiamo, c'è un po' di suspense, c'è un po' di suspense rispetto a un ospite importantissimo che aleggia. Va bene, grazie ancora a Valeria Prea. Grazie a voi. Al nostro David. Grazie a voi. E a risentirci giovedì prossimo dalle 15. Buon proseguimento.